Aleman, Mad Studio, Mad Boys Crew, Genova, epidemia. Nuovo viaggio nei B e via, la voce si espande, epidemia. Impressioni e le convulsioni, convulsioni, epilessia. Fuck it come Imon, buschi recon, c'è uno scricciolo Timon. Ti schiaccio Lebron, sparisci magia. Aleman, alza il livello con il click. Un click sul beat, Karate Kid, Daniel San. Calci in faccia Warang, una tigre sando canto male. Perché ti fai più piste te, di Valea Sepang. Sono mad e vado con sta musica a Prison Break. Occhi red con la cricca del quartiere, uno squadrone All Blacks. Stammi a vedere, ti faccio sapere com'è con me. Se tocchi mio caro caro, ti taglio la mano, ti back. Picchi al sub, metto il nos, dopo il nas. Faccio fit, snow da product, ma il video esce su Pornhub. Se guardo su YouTube, troppi rapper si sentono fieri. Io freddo come Soleri, ma sono più Ice di Cube. Epidemia. Epidemia, la mia voce si diffonde come una malattia.